Da 20 anni velata a pattuglio questa casa. Da 20 anni pattuglio questa casa ammogliata. Rimasuglio di sposo obnubilata. E mi sconforta questa gorgiera guaina dove non proferisco verbo né suono di sgomento. E come Susa zitta zitta mi rassegno a pacche di vento mugugnante nelle risacche auricolari che piagnendo stordita nell'attesa lunghe pendenti pendo. Ma quando un filo lustro di vento sbatte le porte e solleva a garru le tende alle finestre, mi scrosto questa spessa cotenna di ritegno e saltello, saltello, gioco a zoppino sulle tue mattonelle per non calpestare i bordi che non porti iella, sconfinare dai miei casti pegni che ancora non ritorni nei tuoi angusti regni. Da 20 anni labbro pendulo ogni poco mi segno e metro quadro a salvaguardia i tuoi possessi con una spessa cotenna di scontento e contegno e l'ancella alle calcagna tappa le conserve. Ma quando mi distraggo e infrango il rito al rintocco della pendola mi sveglio e m'accorgo che sbaglio il metraggio dell'attesa virando Atena il tuo miraggio mio ammiraglio. E per la rabbia mi mordo un labbro mugugliando. Ancora non m'avvisti, cagna, col morso al guinzaglio. O hai perso il passaggio, sei morto in viaggio. E spalancando, devota, guaito di sbadiglio, sbrigo le faccende. E zitta zitta, come Susa, tappo le conserve. Da 20 anni perimetro con un dito i solchi dell'amalgama che otture denti mattonelle della tua casa passa guai lustrata a specchio e le struscio solerte con foglie di salvia. Da 20 anni sfioro con le dita le tracce delle manate d'uomini che hanno spalmato ruvide l'intonaco di questa casa che mi ingessa e mi sculaccia, mani pesanti incauste mani addosso, di padri convinti e vincastri, spanate mani di tutti maschi me contendenti, a me avvinti, pretendenti, maschi oleastri. Da 20 anni loro non sanno che ogni tanto anch'io mi slaccio la cinta e rinfresco intonacata mura tua suora bianca di clausura, bianche mura di abbacinante calce, opponendo incagliate scaglie di vecchio latte che una volta versai dolce e Telemaco e saggia consorte poi conservai zitta zitta perennemente consolidando come Susa condensato di stucca muliebrità in testa calcestruzza murata viva ma anche piluccando quella bulimica olive sotto sale offerte all'ospite loscamente come scusa sempre versando con incuria caffè corretto in cicuta ovvero conde senza offesa falsa amica una fetta d'anguria d'estate come Susa. Ma quando mi smarrisco e perdo il filo, l'unghia si muove su una superficie nera di lavagna e il filo spinato di speranza si sovverte in uno strip lustrino di sirene che ti abbaglia, mio ammiraglio, e ancora non m'avvisti, allora m'attacco all'anice, taralluccio e vivucchio, tisana di finocchio e con un cenno brusco spegno argute risa stride col cotone nelle orecchie, sbronza dei chiacchiericci di donnicce secche sui benefici in salvo salsa di pomo licopene. Da 20 anni Lazzarone Magnaloto continua a sfiorirmi, ciabattando fra il vacuo cincischio operoso delle ancelle, nelle camere che alloggio fitte fitte attacco il vischio. Ma quando mi rigiro i pollici in sala d'attesa e rischio il posto, investo in bene immobile di fede a oltranza e carità a speranza, presbiopia d'avvistamento mea cefala e sbracciata a pomona di gesso. Poi m'acciambello sulla seggia d'avorio a intarsi, mi sventolo dal caldo col ventaglio, penso al daffarsi e a quale costo ammonto le sostanze sui lombi e sulle cosce, dove se torni sbatterai le ganasce, vecchia storiaccia della moglie che aspetta il dì di festa, mi procuro perciò di tappezzarle tappabuchi di lipidi marito in fuga, ma di dadalghe fanghi antitarli fave di fuca, mi piallano la pancia, pelle di pesca, buccia d'arancia. da 20 anni ostinata difendo dalla muffa morte. Le mie parti molli, 20 vani in ombra, e solo protesi di gomma piuma color carne, faccia flaccida e pallida come una veccia, protendo e pretendenti pentolacce, così sloggiano imbottiti e sfollo. Ma quando intreccio ceste di vimini e le tappezzo di foglie di fico, sforbicio uno squarcio felice di paesaggio al riparo d'orridi e fosse, nell'isola nostra natia Itaca ferita rupestre, nobile sterpaglia aprica e solatia, con bella vista che irraggia sulla sfilza dei filari dove arranco a bocca aperta, tra solchi bioccoli d'argilla fino al male alla milza, cromo gli olivi di cupo verde mare e cucio suture tra viticci viridenti, croco d'autunno le vigne, paro reti fitte, pronta a contenere i fecondi coaguli delle future coliche, d'uve che pesterò rosse e mature, pronta a contenere cocci d'alivetante, mandorle dolci e fichi, che sgrullerò col cruocco, o fraguli grossi come lingue scarlatte. E mi ritegno grande madre satura bucolica, spaventa paglia dei vitigni scoloriti e spenti, grande madre cianotica, che ammucchia coniche biche brulicanti d'acidi succhi di formica e giare d'alive schiacciate coi tappi pigiati dai sassi, grossa contadina pregna di fatica, labbra screpolate senza manchi, inorgoglita. Da 20 anni Euriclea materna ogni mese mi procuro di foderare di muco le pareti dell'utero dove se torni premerai gommoso, nutrendoti di me feto maturo del mio fegato bilioso, Prometeo ingrato, del mio fegato grosso sparattato, io monte dei pegni tuoi, me farfalla pregna di te bruco. Da 20 anni Euriclea materna rammendo con lo sputo la tua voglia pelosa di cinghiale buscata a caccia nell'infanzia, accogliendo a braccia aperte la tua sete d'ansia e con un colpo di spugna ti cancello le lacrime dalla faccia. Ma se tu ritornassi sotto mentite spoglie di figlio divino viandante bisognoso, o di vanaglorioso logorroico mostro, e non di padre quercia senza scure, lenta schiaccia sassi che m'avvolgesse in una nube densa di cure, stirpe di cario eroico, urente di colostro, mi sa che giro il culo e me ne vado, mi sa che non ti riconosco, che m'incurvo, m'accartoccio, m'accuccio accanto al fuoco e non mi costo d'unette, tremante esile vesta, col mento infossato nel collo e gli occhi pesti dallo sguardo torvo. Ma quando non diffido e cambio filo, ogni tanto geometro da sola la mia vuota noia di perpetua, e cedo e sbianco fra le pareti scoscese della mia scabra stanza. Di nascosto sposto il peplo e svesto con un dito insinuante il tuo miraggio sinuoso, e mi periplo, stanca disilludendo la tua ansia di purezza, con altra vecchia ferita aperta di muliebre e brezza, e allora sì che non perdoni la mia svista e forse non ritorni, ci vedo doppio, non abbia davvero accontentata lei, me, proprio me, che il tuo miraggio, mio uomo, ha bacinato, perennemente svisa e ti depista. Da 20 anni, Ulisse, vai a orecchio a falsirene e mi perdi di vista. Da 20 anni ogni notte mi snodo le caste ciocche rossicce, dei miei capelli a spago unti della tardiva adolescenza in cui malgrado me m'attardo. Ogni notte scaltra sarta mi consumo nel ricordo, sfilando i teleri di un racconto cui mai appartenni, ma zitta zitta come Susa raggomitolo la trama del ricordo, livida e raccolta tramando il tuo ritorno, la tela di un racconto che non svolsi e non svolgo, e l'ancella alle calcagna, cagna senza cuore, tappa le conserve.

a questa scorta l'umiliazione, però talvolta viscida m'abbeai di te, Concetta. Ma più m'abbea e più mi preme ancora, sobbalzi in gola d'ansia che mi strozza lo stesso discorso che ogni notte e ogni giorno ritesso con la stessa premura e stesso scorno. Lenta e solenne a trasognar la tela, per te appartamenti torno. Da 20 anni non dormo. Col tronco che acceca il ciclope conficcato negli occhi vitrei di cartapesta. Ma quando esco dal gregge e scarto fole e speme, mi alzo e appoggio il naso alle vetrate fredde delle finestre e guardo scorrere come ombre morte le mie lacrime contorte nel tempo ormai scaduto del severo interregno, nel poco tempo che mi resta dell'obnubilato reggimento. Piango me, desolata reggia. Piango me, pretendente di me consorte, usurpatrice me della mia stessa sorte. E l'ancella alle calcagna, cagna senza cuore, stappa le conserve. Mi segno in fretta e mi schiodo di scatto dalla seggia. Straniero, è finita l'udienza.